2024 di Enrico Pagliarini. Puntata dell'11 dicembre 2010, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale 2024 è radio24.it, se volete scriverci per qualsiasi motivo. E come sempre vi ricordo che anche questa puntata sarà disponibile attraverso il sistema podcast di Radio 24. Trovate tutte le informazioni online sul nostro sito web www.radio24.it, ma è tutto molto semplice, basta abbonarsi gratuitamente al cosiddetto feed del nostro podcast per scaricare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Disponibile al termine, comunque entro al massimo 1:30 dal termine della nostra trasmissione. Tra poco parleremo delle novità che sono state presentate in settimana da Google. Parleremo oggi anche di videogames, ma iniziamo da WikiLeaks. Dopo l'arresto del fondatore del sito WikiLeaks, specializzato nella pubblicazione di documenti riservati, Julian Assange, il fondatore, dicevo, dopo l'arresto, il suo arresto, si è scatenata una vera e propria battaglia digitale che ha colpito una lista lunghissima di siti. I più famosi sono quelli di Mastercard, Visa, della procura svedese, di PayPal, di Amazon, delle poste svizzere, del senatore ultraconservatore americano Joe Lieberman e dell'ex governatore dell'Alaska Sarah Palin. Ma ci sono anche altri siti attaccati, in alcuni casi sono andati fuori uso per alcune ore questi siti web, in altri casi c'è stata un'attività molto rallentata. Il gruppo di hacker che lancia questi attacchi si chiama Anonymous e l'operazione è stata denominata Payback. Il gruppo, secondo alcune recenti informazioni, conterebbe più di 10.000 aderenti. Per sapere che cosa c'è dietro a questi attacchi è con noi, e saluto uno dei più autorevoli esperti di security in Italia, Dario Forte, bentornato a 2024. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Che cosa sta accadendo? Dal punto di vista tecnico si sta assistendo ad un fenomeno che è già conosciuto da tempo, che si chiama Distributed Denial of Service, che è un bombardamento virtuale degli obiettivi che chiaramente gli attaccanti si pongono e si prefissano. Qual è la caratteristica tecnica? Prendono una serie di obiettivi, nel caso specifico i siti che tu hai citato, e li si bombarda con una serie di pacchetti con la finalità di renderli indisponibili a coloro che ne devono fruire. Quello che ha colpito principalmente gli analisti in questo periodo è la potenza di fuoco che si è scatenata nei confronti di questi obiettivi, che non dimentichiamo sono già di per sé molto attrezzati per difendersi dagli attacchi di questo tipo rientranti nell'ordinario. Qual è la differenza interessante nel caso specifico? È che tutti gli attaccanti sono stati uniti da questo desiderio di rivalsa etica nei confronti di chi ha arrestato o comunque di chi sta gestendo la rivalsa giudiziaria nei confronti di Julian Assange. Significa fondamentalmente che tutti si sono messi d'accordo nel far risvegliare i computer che avevano fino a quel momento compromesso e avevano tenuto lì dormienti, pronti per essere utilizzati, per premere poi questo pulsante rosso virtuale e scatenare questi attacchi. Se facciamo un paragone con il mondo reale, un po' come se domattina tutti gli italiani andassero in banca a ritirare i soldi e in questo modo il sistema bancario andrebbe in tilt, oppure se tutti andassero al distributore di carburante, dopo poche ore i distributori rimarrebbero senza carburante, o c'è qualche cosa di più o c'è anche qualche cosa di illecito, perché diciamo se tutti vanno in banca non c'è nulla di illecito, diciamo che andrebbe in tilt un sistema che si basa su una statistica che ci dice che non tutti assieme vanno in banca. Dunque, io ragionerei in una maniera inversa. Immaginiamo un gruppo di persone nutrito, migliaia, centinaia di persone che si recano da un distributore di benzina nello stesso momento e ne impediscono l'accesso ad altre. Il distributore di benzina è fatto per poter ospitare n macchine e fornire n litri di benzina al minuto. L'insieme sovradimensionato di queste macchine che arrivano tutte insieme rende indisponibile l'utilizzo del distributore stesso. Funziona così anche nel mondo nel caso specifico dell'informatica. Abbiamo un numero superiore di richieste rispetto a quello che il sistema può soddisfare. Si tratta comunque di un atto di per sé illegale, perché giuridicamente in tutti gli stati, a prescindere tranne alcune isole felici o infelici a seconda delle prospettive, sì, esistono delle normative che impediscono penalmente queste attività. C'è quindi una differenza tra l'andare in banca e togliere i soldi, ma il sistema bancario, in questo caso parlo di quello informatico, continua a funzionare, è chiaro che quello economico-finanziario avrebbe degli impatti, sì, e invece mettere più persone allo stesso punto, allo stesso sportello, rendendo impossibile l'effettuarsi delle operazioni. Chiarissimo, quindi questa è comunque una pratica illecita. Dalla tua esperienza, intercettare questi personaggi che hanno coordinato almeno questi attacchi è tecnicamente facile, difficile? Cioè, in alcuni stati qualche arresto è stato fatto, qualche segnalazione è stata fatta, però è difficile per il momento almeno sapere chi c'è dietro questi attacchi. Guarda Enrico, parlo per esperienza diretta anche da ex appartenente alle forze dell'ordine. E questo tipo di attacco è difficile da rintracciare, o meglio i responsabili sono difficili da rintracciare coi mezzi di protezione di indagini ordinaria, perché queste persone hanno una serie di accorgimenti preventivi per cui rendono estremamente difficoltoso il rintraccio dal punto di vista tecnico. Tutte le volte che i responsabili di attacchi di questo genere sono stati rintracciati, parlo dal famoso Mafia Boy, che più anziani di internet ricorderanno, fino a quelli dei giorni nostri, sono stati rintracciati con operazioni miste di intelligence e di intercettazione, non tanto di backtracing. Dal punto di vista invece della sicurezza, gran parte di questi attacchi possono essere prevenuti da sistemi adeguati, però quando, come in questo caso, i numeri di pacchetti, di bombardamenti aumenta in maniera esponenziale, anche questo diventa tecnicamente molto difficile da porre in essere. Ricordiamo, e va sottolineato, che WikiLeaks, o comunque tutta l'organizzazione che c'è dietro a WikiLeaks, non ha nulla a che vedere, o forse in minima parte, con questo gruppo di hacker. Cioè WikiLeaks non è un gruppo di hacker. WikiLeaks, è corretto quello che dici, non acquisisce, almeno per quello che risulta, le informazioni in maniera illecita, cioè mi si passi il termine bucando le macchine del governo e tirandone fuori i contenuti. WikiLeaks lavora in maniera molto più semplice, ha delle fonti che gli passano delle informazioni, che poi possono essere retribuite o meno, o comunque lo fanno per altre motivazioni. C'è una bella differenza tra l'acquisire e pubblicare delle informazioni e naturalmente oppure acquisirle in maniera illecita con degli attacchi, e questa è una differenza estremamente importante, perché poi si porta dietro una serie di implicazioni giuridiche e diplomatiche anche in tema di estradizione, che vanno assolutamente considerate. In realtà, dal punto di vista della sicurezza, WikiLeaks, e qui parlo da operatore specializzato, consulenze di aziende molto importanti, WikiLeaks pone l'accento su un problema molto serio in aziende e istituzioni in questo momento, che viene identificato con l'acronimo DLP, Data Leakage Prevention. Che cos'è? È in pratica la necessità di prevenire la fuga di informazioni generata da utenti autorizzati. In pratica, l'obiettivo principale di aziende e istituzioni in questo momento è, oltre a quello di proteggersi da attacchi esterni, è quello di evitare che persone autorizzate facciano fuoriuscire delle informazioni che dovrebbero rimanere all'interno del perimetro aziendale. Questa è un'evoluzione della sicurezza che gli ascoltatori più affezionati ricorderanno, perché ne avevamo parlato anche alcuni anni fa. In realtà in questo momento rappresenta l'emergenza, quindi ha sicuramente l'attacco hacker una rilevanza di tipo strategico, ma la fuga delle informazioni generata da utenti autorizzati rappresenta il vero problema del 2010. Grazie a Dario Forte e buon lavoro. Grazie a voi. Adesso per noi c'è una breve pausa, ci risentiamo tra un minuto. 2024. Non dimenticate il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it, ma soprattutto non dimenticate la possibilità di riascoltare 2024 attraverso il sistema podcast di Radio 24. Tutte le informazioni sono online sul nostro sito internet www.radio24.it. Entrate nella sezione dedicata al podcast, lì trovate tutte le informazioni, anche il link da utilizzare, l'indirizzo da utilizzare nei programmi che riescono a gestire il podcast, come ad esempio iTunes. Sono migliaia ormai i nostri ascoltatori che utilizzano questo sistema molto comodo per riascoltare le nostre puntate, non solo 2024. Abbiamo parlato poco fa di security, degli attacchi che sono stati fatti e che vengono fatti anche in questi momenti un po' in tutto il mondo da questo gruppo anonimo, si chiamano proprio così, che sostiene Wikileaks. E una delle ultime considerazioni che abbiamo fatto è che a volte il pericolo non viene dalle macchine, dai sistemi informatici, ma proprio dall'interno. Questo lo dicono molti degli esperti di sicurezza e se ricordate bene, lo ha detto anche l'ingegner Franchina, che si occupa delle infrastrutture critiche presso la Presidenza del Consiglio, quindi si occupa delle infrastrutture critiche a livello di paese, dell'Italia, reti di energia elettrica, acquedotti, autostrade, ferrovie, eccetera, eccetera. E anche in questo caso ci diceva che più che un pericolo da attacchi informatici, i pericoli ai quali bisogna stare attenti per evitare possibili attacchi a questo tipo di infrastrutture possono venire dall'interno, da persone che lavorano all'interno di queste infrastrutture. Cambiamo argomento. Da pochi giorni anche gli utenti italiani possono utilizzare i servizi online di Office, e quindi Word, Excel, PowerPoint e OneNote, direttamente da internet, dai servizi Hotmail, SkyDrive e OfficeLive.com. Basta una connessione ad internet e un account Windows Live. Il tutto è gratuito e quindi questo servizio arriva anche per gli utenti italiani, quindi in lingua italiana, ed è un servizio creato in concorrenza con i servizi di Google. È sicuramente un'estensione dei servizi di Office, del pacchetto Office della Microsoft, ma è stato lanciato per fare concorrenza con Google, che da tempo ha lanciato all'interno dell'offerta di Gmail anche i Documents, quindi si può scrivere, creare fogli Excel direttamente online. Tra poco riparleremo di una strategia di Google proprio sull'online e, se vogliamo, di una competizione proprio con la Microsoft. Prima una notizia che riguarda il mondo degli ebook, perché è stato lanciato negli Stati Uniti proprio da Google il servizio eBooks, una libreria digitale con oltre 3 milioni di titoli che mette Google in diretta competizione con Amazon, Apple e Borders, che è un operatore americano, che si stanno spartendo il mercato emergente dell'editoria elettronica. Il servizio di Google, quindi Google eBooks, arriverà in Europa nella primavera 2011. Questo è un mercato che negli Stati Uniti vale il 9% del totale dei libri, mentre in Italia siamo fermi allo 0,1%, quindi una goccia nell'oceano. C'è però un dato di questa settimana che conferma che, seppur lentamente, qualche cosa sta cambiando. Secondo le elaborazioni dell'Associazione Italiana Editori, sono oggi 5.900 i titoli ebook in italiano disponibili, quindi i titoli digitali, l'1% dei titoli totali. A gennaio di quest'anno erano 1.600, pari allo 0,4%, quindi siamo cresciuti dallo 0,4% all'1,5%. Tornando a Google, sempre questa settimana è stato lanciato il Chrome Web Store, un portale con estensioni e applicazioni da inserire in Chrome, il browser di Google, che come sapete sta diventando anche un sistema operativo. All'inizio dell'anno Google, i ragazzacci di Google, potremmo chiamarli così, avevano presentato e avevano annunciato che entro la fine del 2010 sarebbe arrivato questo sistema operativo che avrebbe equipaggiato dei computer portatili e avrebbe cambiato un po' le carte in tavola. In realtà le cose sono andate un po' diversamente, c'è stato qualche ritardo. Questa settimana c'è stata una conferenza stampa in cui Google ha presentato tutta una serie di novità. Ne parliamo con Luca Figini, che segue il complicato mondo dei computer portatili, dei notebook, netbook, eccetera, eccetera. Luca, bentornato 2024. Grazie, buongiorno a voi. Io dicevo, tu ti occupi di computer portatili. Oggi in effetti parlare di computer portatili è un po' limitativo, perché sono saltati fuori negli ultimi tempi i netbook, i tablet e poi, ad esempio, oggi parliamo di questa novità di Google che andrà forse su che cosa? Loro vorrebbero andare sul segmento dei netbook, comunque degli ultraportatili, quindi non un vero notebook, un desktop replacement come li chiamano, cioè col display grande, ma comunque display compatti, hardware super risparmioso, dimensioni compatte e peso leggero, insomma una cosa che uno si porta sempre in giro ed è sempre connesso. Quindi un netbook con la tastiera. Un netbook con la tastiera. Senti, qualche giorno fa c'è stata una conferenza stampa in cui si è riparlato di questo sistema operativo che vorrebbe andare a far concorrenza con Windows in modo particolare, ma anche con il sistema operativo della Apple e dei computer Mac. Quindi noi in realtà attendevamo sul mercato, almeno entro la fine dell'anno, secondo le previsioni, secondo le promesse e gli annunci, sarebbe uscito sul mercato questo sistema operativo. In realtà le cose non stanno così. Allora, diciamo che loro in qualche modo la promessa l'hanno mantenuta. Sono quelli di Google. Loro, i signori di Google, l'hanno mantenuta, nel senso che hanno comunque prodotto una 60.000 unità di un reference design, come lo chiamano loro, quindi di un portatile che ha montato Google Chrome OS, e quindi loro di fatto, nel loro punto di vista, la promessa l'hanno mantenuta. In realtà non è disponibile Chrome OS pubblicamente, nel senso che questi portatili saranno distribuiti a un numero limitato di persone scelte rigorosamente da Google. Cioè, tu potresti essere uno di quelli? Io ho provato a iscrivermi a questo pilot program, come lo chiamano loro, ma per il momento è rivolto solo agli utenti americani, statunitensi, scelti da loro. Quindi tu puoi candidarti seguendo un link sul sito di google.com, ma poi sceglieranno loro se mandarlo. Tu da tempo stai seguendo questa evoluzione di Chrome OS e quindi poi del prodotto che verrà realizzato. Quindi diciamo che adesso siamo in una fase di test. Quelli di Google, da quello che capisco io, hanno detto, semplificando molto, abbiamo ancora un sacco di problemi, perché si parla proprio di bugs che devono essere risolti. Abbiamo ancora un sacco di problemi, quindi sul mercato ancora non ci vogliamo andare, non ci possiamo andare, faremo una brutta figura. Quindi rimandiamo l'uscita commerciale di questo prodotto. Adesso abbiamo fatto una serie di prodotti test che distribuiamo ad alcuni utenti, tra virgolette, amici, e questi ci diranno quali sono i problemi. Quindi diciamo che probabilmente alla Microsoft stanno ridendo, perché sembra facile, quelli di Google, sembra che a loro riescano sempre molto bene le cose. In realtà poi i problemi ci sono per fare un sistema operativo e andare soprattutto in un mercato dove ci sono grandi produttori, dove ci sono accordi commerciali tra produttori di software, produttori di hardware, eccetera, eccetera, insomma non è mica facile. Allora, a questo punto quali sono i problemi principali e soprattutto che cosa vorrebbero fare quelli di Google per cambiare questo mercato? Loro dicono: vogliamo proporre una cosa nuova. Che cosa? Lo stile di Google è proprio quello di ridurre la complessità di un problema, nel senso che in questo caso loro dicono: abbiamo fatto il sistema operativo basato su un browser che avevamo già, che è Chrome, e tutto sommato ci siamo quasi. In realtà poi, quando si fa un sistema operativo, le cose da tenere in considerazione sono tante. Per prima cosa bisogna avere a che fare con le aziende che poi realizzeranno i computer, e queste aziende, che sono Acer, Samsung, HP o qualsiasi altra, vogliono avere un supporto, e quindi vogliono avere dei driver per le loro periferiche, vogliono avere un supporto dall'azienda che produce il sistema operativo, e quindi vogliono avere una Microsoft di turno che aggreghi loro informazioni e documentazione per poter realizzare i computer. E già questa è una complessità. Certo. La complessità ridotta in questo caso di Google è quella di limitare l'hardware compatibile, e quindi loro definiscono delle specifiche su cui funzionerà il sistema operativo. Un'altra questione è quella dello spazio, dello storage, che va affrontata. Quindi Google è un approccio completamente cloud based, ovvero... Spieghiamo. ovvero è la famosa nuvola. Sì. Quindi tutte le applicazioni non sono in realtà installate sul sistema operativo, sul disco fisso presente nel sistema, ma funzionano con un micro client, con un micro codice presente in locale, ma la gran parte del motore è in remoto su un server online. Quindi tu mi stai dicendo che questo computer portatile funziona sostanzialmente con un po' di software a bordo, ma poca roba, e tutto quello che io normalmente ho sul mio computer in realtà è in rete. Quindi apro un file, anzi forse non apro nemmeno un file, il concetto è proprio diverso, apro un foglio di calcolo, voglio scrivere un documento, tutto ciò che io voglio fare, che posso fare, risiede in rete. Quindi se non ci fosse internet non funziona questo computer. No, anzi Google lo dice proprio chiaramente. Questo è un sistema operativo, è un computer, saranno computer rivolti per chi è costantemente connesso. Cioè se non sei connesso sei praticamente quasi escluso dal sistema operativo, perché e infatti arriva con una radio 3G incorporata, arriva con un wifi, cioè la condizione sine qua non perché Google Chrome OS funzioni che tu sia collegato a internet. E questo è un problema. E questo è un problema soprattutto in Italia, perché le reti wifi... Non solo in Italia, insomma in molti paesi, ma anche negli Stati Uniti diciamo la verità, insomma questo è un concetto che guarda sicuramente al futuro, ma che può essere un problema nell'immediato. Tu dicevi effettivamente che Google ha annunciato anche un accordo negli Stati Uniti con Verizon per offrire il computer assieme alla connettività 3G, perché effettivamente è necessaria ed è importante. Quindi io in locale non posso salvare nulla, se ben capisco, ma di questo parleremo tra poco. Questo è 2024, siete su Radio 24, riprendiamo tra qualche minuto. Seguiteci ogni settimana, andiamo in onda il sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 16 e le 17, oppure ci trovate anche online sul nostro sito internet in versione podcast. In questo modo potete scaricare il file MP3 della nostra trasmissione settimana dopo settimana. Il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, grazie come sempre ai nostri tecnici che si occupano del podcast e anche della parte tecnica durante il programma. Stiamo parlando dell'approccio di Google al nuovo computer portatile. Verranno distribuiti in giro per il mondo, soprattutto negli Stati Uniti, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, 60.000 computer portatili che funzionano grazie a Chrome OS, questo nuovo sistema operativo inventato e lanciato da Google, che vorrebbe fare concorrenza a Microsoft e anche alla Apple, che sono di fatto le due aziende leader, Microsoft soprattutto perché ha circa il 90% del mercato, che sono le due aziende che equipaggiano i computer. Poi c'è anche una percentuale di computer a livello aziendale piuttosto elevata, ma a livello consumer piuttosto bassa, di computer che hanno a bordo Linux. E se non lo dico poi molti ascoltatori mi tirano le orecchie, ma è giusto dirlo, anche perché effettivamente a livello aziendale questo è un prodotto, una soluzione che ha molti vantaggi ed è apprezzato da molte aziende. Dicevo, Google vorrebbe fare concorrenza con questo approccio web-based come dicono oggi gli esperti, dei dati e dei programmi che risiedono in the cloud, cioè un computer che collegato alla rete ha un minimo di sistema operativo per mantenerlo in vita, ma tutti i dati, tutti i programmi che vengono utilizzati risiedono in rete, e quindi grazie a questo collegamento ad internet io faccio molte delle cose che oggi faccio sul computer. Probabilmente certe cose che richiedono molta potenza di calcolo, come ad esempio i videogiochi, di cui tra l'altro parleremo tra poco, probabilmente con un computer di questo tipo non si potranno fare. Ne stiamo parlando con Luca Figini, che dirige una rivista che si chiama Netbooks. Luca, mi sembra di capire quindi che ad esempio io in locale non posso salvare nulla. In locale, allora, non c'è il desktop. Funzionerà come un browser. In locale potrai collegare delle unità esterne USB, e quindi verranno intercettati le unità e visualizzati il contenuto delle unità. Google spera che tu salvi attraverso i loro servizi online, chiaramente potrai salvare qualcosa, ma la speranza di Google è che tutto passi dai loro servizi, quindi da Documents per la produttività personale, piuttosto che da Gmail, piuttosto che da altri spazi online. Quindi in qualche modo ci stai anche dicendo che l'idea di Google è quella di fornire una macchina che sia una porta d'ingresso a tutti i servizi che Google offre online e quindi in un modo sicuramente diverso blindare l'utente in un mondo abbastanza limitato. La resa dei conti, sì, in ultima analisi tu sei fondamentalmente limitato, puoi fare quello che decidono loro, puoi scaricare applicazioni che loro hanno deciso essere compatibili e create per Chrome. Però sì, se per sistema operativo si intende un ambiente di utilizzo, sì, il loro è un sistema operativo. Se per sistema operativo si intende un ambiente dove tu puoi operare in maniera libera, no, non sei libero. Sei vincolato a delle scelte a priori fatte dall'azienda. Senti, questi computer dovrebbero costare poco, loro dicono, giusto? Dovrebbero costare tra i 300 e i $500. Quando usciranno? Allora, Acer e Samsung hanno in qualche modo, Schmidt, il CEO di Google, ha fatto capire che potrebbero già presentare dei prodotti al CES, quindi a gennaio. Consumer Electronics Show, sì. Detto in italiano, CES non è proprio bellissimo, infatti noi diciamo sempre Consumer Electronics Show, di cui naturalmente ci occuperemo anche con una serie di inviati alla fine dell'anno. Ricordiamo che questa è una fiera che solitamente si svolge a cavallo dell'anno, ufficialmente all'inizio dell'anno 2011, ma insomma di ogni anno, ma poi in realtà ci sono un sacco di conferenze stampa già prima dell'anno in cui cominciano alcune anticipazioni. Quindi Schmidt dice presentiamo lì, però sul mercato quando si sul esce? Mercato probabilmente se non per giugno, sicuramente per l'estate del 2011 ci saranno dei prodotti acquistabili quantomeno. Bene, io ringrazio Luca Figini per averci ricordato che cosa sta succedendo, anche perché alcuni, se si erano presi nota, potevano anche pensare, ma avevate detto in primavera, all'inizio dell'anno, che sarebbe successa questa cosa. In realtà, appunto, ci sono tutti questi problemi. Non ultima, Luca, se non sbaglio, la compatibilità con le periferiche. Uno dei problemi che abbiamo avuto per tanti anni con i computer, oggi quasi più direi, era che tu arrivavi a casa con una stampante e avevi dei problemi a installare quella stampante o qualsiasi altra cosa, giusto? Sì, la stampante è un altro punto di domanda in questo momento, nel senso che l'approccio teorico di Google, di Chrome OS, è quello di fornire tutto in cloud, quindi cloud printing. Tu stampi, mandi, invii la stampa in una nuvola e in qualche modo questa stampa si materializza su una stampante. In realtà è un altro delle cose che vanno toccate con mano e provate poi su strada. Sì, quindi la stampante dovrebbe essere una stampante di rete, non locale. Bene, grazie Luca, buon lavoro, a presto. Altrettanto a voi, buona giornata. Adesso cambiamo argomento, parliamo di videogiochi. È uscita questa settimana, il 7 dicembre, la nuova espansione del più noto videogioco di ruolo online. Parliamo di World of Warcraft, ambientazione fantasy per un videogioco giocato ormai da più di 12 milioni di persone in tutto il mondo. La nuova versione si chiama Cataclysm. Saluto Marco Salemi che da 5 anni è online su World of Warcraft. Benvenuto a 2024. Grazie, buonasera a tutti gli ascoltatori. Partiamo dalla tua esperienza. Dicevo che tu da più di 5 anni hai un personaggio, partiamo proprio da questo personaggio. Come ti chiami nel videogioco? Nel videogioco il mio personaggio si chiama Marsala, che in realtà non è altro che le iniziali del nome e del cognome. Tanta gente mi chiede se vengo dalla Sicilia, in realtà ho origini siciliane, ma non è per questo, diciamo, che ho messo Marsala, ecco. E che cos'è questo Marsala nel videogioco? Marsala è uno stregone. Questo è un videogioco, dovete pensare, dove ci sono, innanzitutto è un panorama fantasy, per chi ha familiarità con Il Signore degli Anelli e con l'ambiente fantasy ha all'interno le più classiche figure, come lo stregone, il mago, il curatore, che è un prete, un paladino, le varie figure classiche, e il mio personaggio in questo caso è uno stregone che fa comunque magie di attacco, perché poi all'interno del gioco ci sono battaglie sia contro altri giocatori sia contro le sfide, diciamo, proposte dal gioco stesso, dalla Blizzard, che è la casa che ha fatto il gioco, che propone delle sfide nuove a ogni espansione. La differenza sostanziale tra questo videogioco e altri videogiochi conosciuti dagli ascoltatori di grande successo che si possono giocare su una console, con PlayStation, con Xbox, con Wii oppure le portatili, eccetera, eccetera, che questo si svolge online. Quindi di che cosa abbiamo bisogno? Un computer e una connessione ad internet? Un computer e una connessione a internet è obbligatorio. Si sono pensate diverse volte delle trasposizioni su console, ma per ora è una realtà che riguarda solo il computer. È necessaria sicuramente una connessione. Rispetto a 5 anni fa il gioco ha subito una grande evoluzione anche in termini di richieste di risorse, non tanto quelle di computer ma quanto la linea internet. Io stesso infatti riuscivo a giocare inizialmente addirittura con una linea ISDN, ma adesso come adesso non si riesce più a farlo girare senza una buona DSL, specie nelle situazioni, come dicevi tu prima, ci sono veramente molti giocatori. Al di là dei 12 milioni del mondo si deve pensare che in Italia ce ne sono veramente centinaia di migliaia, e quindi quando all'interno di uno stesso server ce ne sono già 1000-1200 comincia a diventare un problema gestire le risorse se non hai una buona linea. Diciamo che anche in questo caso esiste un digital divide: se uno non ha una buona connessione non può videogiocare. Può videogiocare, ma sicuramente non riesce a godersi appieno l'esperienza, deve escludere alcune parti dove appunto c'è bisogno di stare con gli altri, di giocare insieme alla tua gilda, alla tua squadra. Senti, detto semplicemente, che cosa si fa nel videogioco? Esiste un obiettivo? Quali sono gli scopi? Allora, il gioco è né più né meno una trasposizione della vita all'interno di questo gioco, quindi non c'è come il classico videogioco che uno fa per console, lo prende, lo gioca, lo completa e poi lo riporta al negozio, come ormai è sempre, lo facciamo sempre più spesso, ma è un mondo persistente che esiste 24 ore su 24, dove tu inserisci il tuo user e la tua password e entri all'interno di questo mondo, dove hai chiaramente il tuo personaggio che entra nell'ora e nel momento del tempo di gioco, ma chiaramente corrisponde a seconda di dove ti trovi nel mondo all'orario in cui entri. E né più né meno tu continui la tua avventura sempre, è un gioco dove tu entri e puoi non fare nulla e magari chiacchierare con gli amici che trovi, che possono avere anche loro un loro personaggio, oppure puoi insieme a loro fare delle avventure proposte, e qui è diviso in quest, che sono sostanzialmente delle avventure che tu fai e puoi finire in pochi minuti, oppure delle avventure in cui ti devi radunare con le persone e ci possono volere anche alcune ore e una certa concentrazione, altrimenti non si riesce a completarle. Via. Senti, potremmo dire che è una Second Life che funziona? È una Second Life che funziona, in effetti sì, diciamo che l'aspetto sociale di Second Life è chiaramente fa per la maggiore, e in questo c'è un po' di meno in un tipo di gioco del genere, ma comunque sia sempre della stessa famiglia, diciamo, parliamo, è meno gioco Second Life, mentre certo, questo è chiaramente più gioco. Questo è proprio un gioco. Esatto. Quanto tempo ti occupa e anche quanti soldi, perché bisogna pagare un abbonamento, giusto? Allora, sì, bisogna pagare un abbonamento mensile che va a seconda della scelta dalle 14 euro per il diciamo il mese singolo all'abbonamento che uno può fare semestrale o annuale o trimestrale, che chiaramente va a scalare fino, se non mi sbaglio, a 10-11 euro al mese se uno fa l'annuale. Sembra una cosa un po' strana a chi ha giocato nella vita solo ai videogiochi, infatti io ho alcuni colleghi di lavoro, essendo ormai non troppo giovane, come dicevi anche tu prima, nel senso che ho 34 anni e quindi sono davanti al mondo dei videogiochi da più o meno quando ne avevo 6, quindi li ho vissuti un po' tutti. Esatto. E questo in effetti è un videogioco che, avendo questo costo mensile, sembra una cosa molto strana, ma se si pensa agli enormi costi dei videogiochi anche per console, che vanno, quando sei fortunato, 50, quando è nella normalità 70 euro, con 70 euro in effetti uno può giocare 6 o 7 mesi a un gioco del genere, insomma, quindi... Certo. Marco, rimani con noi ancora per qualche minuto. Adesso abbiamo una pausa. Questo è 2024. Siete all'ascolto di Radio 24. Ci risentiamo tra un minuto. Ultima parte di 2024, stiamo parlando con Marsala, che è in realtà Marco Salemi nella vita normale, tra l'altro oggi si sposa Marco, quindi facciamo tanti auguri, in bocca al lupo, non so come si dice durante per i matrimoni. Questa è un'intervista che abbiamo realizzato qualche giorno fa in occasione dell'uscita il 7 dicembre della nuova espansione Cataclysm di World of Warcraft. Ci sono 12 milioni di giocatori online sui server in tutto il mondo. Marco, siamo curiosi di sapere quanto tempo dedichi online a questo gioco, quanto rimani online, giochi o fai altro? Che per me l'esperienza è cambiata molto da quando ho iniziato, che avevo 29, ora che ho 34, perché chiaramente ho una famiglia eccetera, però diciamo che mediamente l'esperienza varia. Infatti si può dire che esistono casual player, cioè gente che gioca, entra, magari fa un'oretta, perché no, al giorno, oppure gente che effettivamente sta forse anche un po' troppo, c'è anche gente che non dico che non stacca mai, ma insomma la mia esperienza personale, diciamo che ormai posso dedicare diciamo 14-15 ore a settimana, forse. Come uno sport. Sì, che sono praticamente delle ore serali in cui ci raduniamo e facciamo diciamo giocate da 4-5 ore, diciamo 4 ore. E per tre o massimo quattro volte a settimana, ma diciamo tre è la media. Tu hai detto ci raduniamo, perché questo è un aspetto importante del videogioco, cioè la dimensione sociale, e citiamo anche il gruppo all'interno del quale voi vi radunate, cioè la gilda, che è un elemento importante del videogioco. Molto importante, che cos'è? Fondamentale. Allora, la gilda è né più né meno un'aggregazione di giocatori che si conoscono all'interno del gioco, inizialmente come personaggi, formano un gruppo di cui uno è fondatore, nel mio caso io sono il fondatore di una gilda che si chiama Rock and Roll, che è nel videogioco praticamente dal 1 luglio 2005, è in assoluto la gilda più vecchia mai scioltasi, perché chiaramente come i vari aspetti sociali esistono anche i litigi all'interno e quindi le gilde che si spaccano, ma noi siamo stati molto bravi a rimanere uniti, a formare un gruppo molto affiatato con i quali chiaramente siamo andati al di là del videogioco, siamo riusciti a conoscerci anche nella vita reale, facciamo un raduno all'anno e diciamo che 30-40 persone sono rimaste affiatate nell'arco degli anni, anche quelle che hanno smesso. Comunque dicevo, è fondamentale il gruppo, perché con il gruppo tu riesci a portare avanti le avventure, e dovete pensare che il gruppo non è semplicemente entriamo nel gioco e chattiamo usando la tastiera, ma noi spesso abbiamo programmi di terze parti che ci consentono di usare cuffia e microfono per stare tutti all'interno di uno stesso canale e poter parlare e coordinarci a voce, senza il quale sarebbe impossibile raggiungere alcuni traguardi semplicemente scrivendo e contemporaneamente giocando. Voi siete una gilda italiana e tutti i componenti sono italiani? Esclusivamente italiane, giochiamo su un server pieno di italiani, il gioco non ha una localizzazione in italiano, ma ha dei server completamente pieni di italiani, ce ne sono attualmente tre completamente pieni di italiani, quindi stiamo parlando di almeno 10.000 persone completamente italiane all'interno, dove esclusivamente trovate le scritte del gioco in inglese, ma i vari canali delle chat sono tutti in italiano. Uno gira il mondo e si dice spesso trova italiani ovunque, e anche anche nel mondo di Warcraft ci sono solo italiani. Senti, però potreste estendere la vostra gilda anche a stranieri, cioè ci si può incontrare anche con... Inizialmente io era un server, quello dove gioco si chiama Crash Ridge, è il nome del server, inizialmente era popolato da greci e italiani, poi chiaramente loro hanno deciso di emigrare su un server dove c'erano esclusivamente greci, ma non per un discorso di non riuscire a farlo, ci sono server dove si gioca tranquillamente con svedesi. È importante capire che c'è la localizzazione, la differenza di questo gioco, ovvero noi siamo nell'area europea, poi c'è l'area americana, l'area asiatica, questo non si può giocare con tempo, cioè diciamo che non possiamo giocare con americani o con asiatici, ma possiamo giocare solo con europei, quindi per europei dico spagnoli, francesi, tedeschi, eccetera, ma anche per un discorso di comodità di orari, insomma sarebbe assurdo programmare un evento con uno che quando da noi è notte, lì è giorno, insomma. No? Sì, certo, poi ognuno ha la propria vita e orari da rispettare. Marco, grazie per essere stato con noi, ti auguriamo buon divertimento per le prossime ore che passerai online a giocare a questa nuova estensione di World of Warcraft. A presto. Grazie mille a voi per avermi dato la possibilità di partecipare. Avete sentito che Marco Salemi, detto Marsala, come abbiamo detto, ha 34 anni. Sicuramente uno dei fenomeni al quale abbiamo assistito negli ultimi anni anni nel mondo dei videogame è quello dell'età dei videogiocatori, gente che giocava magari a 20 anni, che oggi ne ha 30 o addirittura 40 o anche di più. Anche di questo abbiamo parlato in un incontro che abbiamo avuto con Raffaele Galante, l'amministratore delegato di Digital Bros, uno dei più importanti produttori italiani di videogiochi, un'azienda fondata nel 1989, dal 2000 alla Borsa di Milano, che ha resistito e cresce in un mercato dominato da aziende americane e asiatiche. Però il mondo dei videogame ormai copre veramente tutte le fasce, che vanno dai ragazzini più giovani fino a arrivare anche agli adulti fino ai 50 anni, perciò ci sono sicuramente i core gamer, i giocatori assidui che chiedono giochi di qualità molto solidi, molto, molto profondi e molto impegnativi. Poi ci sono giochi anche per family, dove si chiede magari un intrattenimento molto più soft, dedicato alla famiglia. E abbiamo anche giochi un pochino, chiamiamo quelli rilassanti, quelli che richiedono magari poca attenzione e uno lo fa solamente per passare qualche minuto per magari in un aeroporto piuttosto che a casa. Perciò la fascia è molto più ampia, non è più legata a una sola tipologia di gioco. C'è un avvicinamento molto forte della categoria femminile, che si è molto appassionata ai videogame, e perciò oggi troviamo moltissimi core gamer che sono anche delle ragazze. Una volta questo era molto raro nella nostra industria, però oggi è diventato molto più diffuso. La trasformazione del mercato mobile, quindi l'arrivo negli ultimi anni degli smartphone sempre più potenti, con schermi molto più grandi, più belli, come ha cambiato questo mercato? Sicuramente ha cambiato un po' il mercato, molti ragazzi si sono avvicinati al mercato anche giocando attraverso gli smartphone, iPad, iTouch, iPhone. Ovviamente il loro tempo l'abbiamo visto che molti giochi che erano sulle console portatili ne ho un po' risentito. Ma risentito più che altro i giochi un pochettino molto leggeri, che non erano molto profondi. Oggi però siamo alla vigilia di un momento molto importante, perché a febbraio, marzo anzi, sarà lanciato le nuove console portatili, in particolare saranno lanciate la PSP fra un anno, la PSP2, e a marzo del 2011 dovrebbe essere lanciata la 3DS. 3DS è la prima macchina, una prima console che permette di giocare in 3D, addirittura senza occhiali. Pensiamo che molti ragazzi che, se vogliono provare questa esperienza, questa sensazione di giocare in 3D, non potranno farlo direttamente con il loro device mobile, dovranno sicuramente tornare a avere una console portatile, in questo caso potrebbe essere Nintendo 3DS, e più avanti, se vogliamo, altre esperienze con la PSP, con la PSP2. A proposito del 3D, voi quindi pensate che l'arrivo di Nintendo 3DS possa cambiare, possa rinvigorire il mercato delle console portatili? Che cosa pensate invece dell'arrivo e della lenta, diciamo, espansione delle 3D sulle TV? Questo sta cambiando un po' il mondo del videogame tramite console oppure no? Ritengo, è un'opinione personale, che una barriera del 3D sono sicuramente gli occhiali. Nella console, nella 3DS, non ci sono gli occhiali, perciò uno è molto libero di giocare ed è un'esperienza molto bella provare il 3D senza niente. L'occhiale purtroppo può, in una certa maniera, può limitare forse il mercato, ma so che ci sono già lo studio delle televisioni, che in futuro non ci sarà più bisogno. Io ritengo che la vera espansione sarà quando non c'è nessuna barriera, neanche un occhiale da mettere, perché per andare in mass market deve essere tutto molto semplice, molto diretto. Che cosa dire dei social network, o comunque del mondo online? Naturalmente i social network sono una parte del mondo online. Social network, assolutamente il mondo dell'intrattenimento, noi ci chiamiamo intrattenimento interattivo, è toccato, perché bene o male ormai qualunque piattaforma per poter attirare dei consumatori avvicina molto al mondo del game, e anche i social network hanno dei bellissimi bellissime opportunità di poter offrire ai propri consumatori un modo di intrattenersi anche giocando. Quello più popolare ovviamente Facebook in questo momento ha dei giochi dove hanno anche una comunità molto molto molto interessante. Sono dei giochi, non possiamo chiamarli come dei videogiochi, perché come noi riteniamo, perché i giochi su console hanno una dinamica completamente diversa, un approccio completamente diverso. Un gioco di calcio, un gioco di simulazioni aereo piuttosto che di guerra o altre esperienze che si va a console, su una console, è un mondo completamente molto più aperto. Il social network, sì, è l'approccio al videogame che lo riterrei molto più vicino al mondo del mobile, perciò sono dei giochi un pochettino più soft, più light, che permettono sicuramente di giocare e di intrattenersi, però non si entra nel mondo dei gamer, dei core gamer, che quello rimane molto legato al mondo della console, ecco, questo come vedo il social network. E così concludiamo questa puntata di 2024. Come sempre, grazie per la vostra attenzione, grazie anche per i messaggi che ci inviate settimana dopo settimana e tutti i download che fate sul nostro sito internet attraverso il servizio podcast. Noi ci risentiamo tra 7 giorni, io sono Enrico Pagliarini, grazie come sempre ai nostri tecnici, ad Anita Panizza in redazione, il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Un buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.